nessuno. Entro dentro la casa e vedo lei, e tu mi piaci, quanto mi piaci, se quel che vedo parla di te. E tu mi piaci, ma se vuoi andare vai, vai. Son qui anche se non ci sei, soffrirò a guardarti negli occhi di lei, in quelle foto in tre. Son qui anche se non ci sei, che se pensi che noi adesso stiamo bene, ma tu non sai che ora mi mancherai, sai, son qui. Siamo noi, ci siamo.